si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, ultima puntata in questo formato di Si può fare, perché sta iniziando domani il nuovo palinsesto di Radio 24 e anche noi avremo una collocazione diversa. Saremo il sabato mattina e la domenica mattina, il sabato dalle 7.30 alle 10 e la domenica dalle 8.30 alle 11, insomma il buongiorno di Radio 24 nel weekend. Vi ricordo i nostri contatti che non cambiano: su Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è @ si può fare 24, il mio è @ Ale Maurizi. Scriveteci, contattateci, c'è anche la mail si può fare @radio24.it per raccontarci le vostre buone notizie, le vostre belle storie. Diventeranno protagoniste del programma sicuramente. C'è anche la segreteria telefonica, continuiamo a voler raccogliere i vostri messaggi per salvare l'Italia in un minuto, 800 28 12 12. Appuntamento allora col nuovo formato sabato prossimo alle 7.30. Adesso un paio di notizie veloci per iniziare. La prima notizia viene da Piazza Armerina, dove immobili confiscati alla criminalità diventano la sede del Mediterranean Women Center of Mosaic Art, cioè il centro per le arti musive, cioè dedicate ai mosaici, dove potranno lavorare tante donne, quindi un'occasione per il lavoro ma anche per recuperare persone dal disagio sociale. Tutto fatto in un immobile sequestrato alla mafia. L'ultima notizia viene da Pisa ed è questa: servizio d'ascolto per imprenditori e lavoratori in crisi, un protocollo firmato dalla prefettura con tanti enti, tante associazioni del territorio, commercianti, artigiani, imprenditori eccetera, per chi in questo momento è in difficoltà. Adesso andiamo ad iniziare, entriamo in biblioteca. Oggi vogliamo iniziare da un'iniziativa partita venerdì scorso e che andrà avanti fino al 5 ottobre, Biblio Pride, giornata nazionale delle biblioteche. L'orgoglio delle biblioteche scende in piazza, è questo il sottotitolo dell'iniziativa. Noi salutiamo Marta Motta, che fa parte del comitato organizzatore di questa iniziativa. Buongiorno. Buongiorno a tutti e buona domenica. Intanto, Biblio Pride, perché un'iniziativa così? Allora, Biblio Pride, intanto quella di Firenze e della Toscana, è la seconda edizione di questa giornata dell'orgoglio delle biblioteche e dei bibliotecari italiani. La prima edizione è andata, c'è stata lo scorso anno a Napoli e ha avuto un grande successo anche di copertura mediatica. Ah, l'avete pensato bene di ripetere, insomma, se è andata bene la prima volta. È un'iniziativa che noi vorremmo diventasse un appuntamento annuale, sì. Che avesse come sede ogni anno una regione italiana diversa, e diciamo che quest'anno è stata scelta la Toscana, in particolare Firenze, in quanto appunto l'idea del Biblio Pride, cioè della giornata dell'orgoglio delle biblioteche, è nata a Firenze da un bibliotecario toscano, e quindi diciamo che per la seconda edizione siamo felici di ospitare questa importante iniziativa. Chi era questo bibliotecario, si può dire, penso, no? Il bibliotecario di Empoli, in provincia di Firenze, che si chiama Carlo Ghilli, che è il direttore della biblioteca comunale. Ecco, quindi diamogli merito di essere partito con questa iniziativa, perché di giornate dedicate a qualche cosa ce ne sono tante, però è curioso. Soprattutto dedicate alla biblioteca, in tutto il mondo c'è un'iniziativa che ricorda l'importanza della biblioteca non solo come tempio poveroso della cultura. Brava, perché è un po' questo, no? La cultura che bisogna combattere, cioè l'idea. Ma la biblioteca è un presidio della cultura ed è all'interno della società di informazione, infatti molto spesso è l'unico luogo in cui il cittadino può avere accesso ad internet, che non è una cosa così banale, ma anche non solo ai libri cartacei ma anche l'ebook. Infatti molte biblioteche sono state le prime ad dare in prestito questa nuova tecnologia, diciamo anche i libri in digitale, e quindi dall'anno scorso anche in Italia possiamo dire che abbiamo il Digio Pride, cioè la giornata in cui il bibliotecario può dimostrare che con orgoglio cosa vuol dire fare la sua professione. Parliamo di biblioteche pubbliche e private? Parliamo di tutte le biblioteche, la giornata nazionale delle biblioteche, e quindi pubbliche, private, delle università statali, del Ministero dei Beni Culturali. Quante sono, ci tocca questa curiosità, oggi in Italia le biblioteche, lo avrete questo dato, ci sarà un censimento? Adesso il numero preciso non lo so, ma circa 13.000 biblioteche in Italia. Beh, insomma, non è poco. In cui lavorano circa 18.000 professionisti dell'informazione che appunto sono che danno con orgoglio ogni giorno il loro servizio. Insomma, 13.000 biblioteche, 18.000 operatori, capite che non è poco. Però adesso ci fermiamo un secondo, però poi vogliamo capire come, anche grazie a iniziative come questa del Biblio Pride, possiamo immaginare la biblioteca del futuro, qualcosa che sia diverso da quell'idea magari di uno spazio polveroso, come diceva Marta Motta, dove non si va, o si va malvolentieri, o si va soltanto perché c'è il libro di carte. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Marta Motta, del comitato organizzatore del Biblio Pride. Tante iniziative per celebrare, per festeggiare, per capire e conoscere le biblioteche italiane, 13.000. Adesso poi ci dirà anche alcune di queste iniziative quali sono. Però dicevamo, possiamo raccontare anche dei casi interessanti di biblioteche che guardano al presente ma anche al futuro, e che quindi si tolgono di dosso quell'idea di luogo magari vecchio che non attrae i giovanissimi o comunque un pubblico importante? Allora, intanto le biblioteche, come abbiamo detto, non sono solo musei dei libri cartacei, ma in biblioteca, oltre ai documenti che sono... si presentano vari supporti, sia cartacei, sia multimediali, sia digitali. Ci sono anche molte altre iniziative, infatti la biblioteca spesso promuove iniziative per adulti, per bambini, di promozione della lettura, anche corsi di formazione. Cioè, la biblioteca in realtà è diventato un punto di riferimento per la società civile per avere accesso a molte informazioni e non solo informazioni ma anche a... Ecco, ma mi tolga una curiosità, dato che in genere il meccanismo della biblioteca è quello del prestito più o meno gratuito del libro, insomma, no? Ecco, come si sostengono le biblioteche poi da questo punto di vista? Come si sostengono poi dal punto di vista economico le biblioteche? Sono fondazioni, ci sono fondi pubblici? Sono i fondi pubblici, le biblioteche pubbliche sono sostenute dai fondi pubblici, ossia dal comune, dalle province, dalla regione, dallo Stato, nel Ministero dei Beni Culturali. Ovviamente ci sono anche le biblioteche delle fondazioni, le biblioteche private, le biblioteche, centri di documentazione delle aziende. Ci sono varie disparate tipologie di biblioteche. Ok, quindi insomma presidi più o meno economici, gratuiti, insomma, per chi voglia frequentare il mondo della cultura e dei libri, dicevamo. In un momento di crisi come ora, noi abbiamo visto anche aumentare proprio l'utenza delle biblioteche, perché spesso è l'unico luogo in cui il cittadino può avere accesso anche a internet o comunque alle documentazioni, ai libri, eccetera, ai giornali. Dicevamo però tante iniziative, siamo quasi in chiusura per questa seconda edizione dell'orgoglio delle biblioteche, il Biblio Pride. Ce ne vuoi raccontare qualcuna? Allora, visto che siamo in chiusura, io volevo ricordare e invitare tutti, intanto in tutta Italia ci sono più di 300 iniziative in cui appunto ci saranno feste, promozione della lettura, laboratori in tutte le biblioteche italiane, ma io vorrei invitare tutti chi ha la possibilità di venire il 5 ottobre in Piazza Santa Croce a Firenze, in cui che sarà l'evento clou di tutta questa settimana. Cosa succederà? Succederà di tutto, sarà una grande festa in cui parteciperanno tutti i protagonisti della filiera delle biblioteche, diciamo, quindi ci saranno le associazioni, le ditte, le cooperative, i fornitori, le case editrici che in qualche modo lavorano all'interno della biblioteca, ma sarà una grande festa perché ci saranno letture animate, performance teatrali, reading degli scrittori appunto che porteranno la loro testimonianza in Piazza Santa Croce. Anzi, vorrei ringraziare soprattutto e in particolare il Movimento Differenze delle Letterature che proprio per l'occasione ha scritto per i bibliotechi, sì, per le biblioteche, 9 racconti inediti che poi verranno raccolti in un'antologia. Tra l'altro un doppio ringraziamento perché i proventi di questa antologia andranno in beneficenza, quindi non solo in favore delle... Bene, doppia buona notizia. Grazie a Marta Motta del comitato organizzatore del Biblio Pride edizione 2013, dunque appuntamento il 5 ottobre a Piazza Santa Croce a Firenze, un momento popolare, di coinvolgimento popolare attorno al tema dei libri, della cultura e soprattutto delle biblioteche. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Parlare adesso di una iniziativa contro lo spreco alimentare in particolare, che vuol dire risparmio di risorse economiche ma anche ambientali, quindi più sostenibilità, ma soprattutto, se possibile, anche aiutare le persone che hanno più bisogno e che sono più vicine a una soglia di povertà. Una parola sempre difficile da pronunciare, da immaginare, ma è questa la realtà, anche italiana, sempre di più, purtroppo, di questi anni caratterizzati dalla crisi. L'iniziativa è Pasto Buono, progetto solidale della genovese Qui Foundation, Onlus di Qui Group. È una società italiana che lavora nel campo dei buoni pasto. Qua però parliamo di pasti buoni. Abbiamo convocato Gregorio Fogliani, che è presidente di Qui Foundation. Buongiorno. Buongiorno a lei. Un pasto buono, in che cosa consiste questa iniziativa che è partita anni fa ma che ha avuto un'accelerazione perché voi nell'ultimo, solo nel 2012, siete riusciti a recuperare e donare 70.000 pasti, così è quello che, certo, che leggiamo. Come è stato possibile? Il pasto buono, diciamo, nasce da un'iniziativa per diciamo, noi come diceva lei siamo una società di buoni pasti, perciò abbiamo circa 100.000 locali convenzionati in tutta Italia del food, no? Sì. Allora, e avendo anche noi locali gestiti nella ristorazione commerciale, vediamo che questo cibo che è invenduto, sano e invenduto, chiaramente andava nei cassonetti, nella spazzatura va, no? Allora noi abbiamo detto, perché non far ritirare questo cibo sano e invenduto, che invece che nei cassonetti vada nella tavola di chi ne ha bisogno. Cosa succede? Lei tenga presente che noi, operando in tutta Italia, non c'è per me nessun locale che non ha del cibo sano invenduto, non esiste per me. Allora abbiamo detto, perché non si può fare, diciamo, e chiaramente oltre a far del bene e agevolare, diciamo, della gente in un, sì, momento anche di difficoltà, farsi ripartire con un progetto del genere. Ecco, ma come funziona? Perché ce lo chiediamo tutti, com'è possibile diminuire questo fenomeno? Diciamo, è abbastanza semplice, cioè, dovrebbe essere semplice, però poi c'è la burocrazia, no? C'è da una parte l'innovazione, dall'altra la burocrazia che impedisce una facilità, chiaramente, una diffusione. Succede così, lei per esempio oggi va in una gastronomia di un supermercato, sì, gliela faccio semplice, sì, no? O in un self-service o in una rosticceria, qualsiasi locale, diciamo, che faccio. E loro cuociono in un supermercato, diciamo, non hanno la gastronomia. Alla chiusura del locale, questo, sì, cibo che ha la gastronomia va nel cassonetto della spazzatura oggi. Se lei tenga presente che ci sono tantissime persone, ma in tutte le città, abbiamo due tipi di persone. Uno che ha il casco, che si avvicina a un cassonetto della spazzatura che ha un casco, che è una persona di solito diciamo normale, che può essere in un momento di difficoltà, un nuovo povero, gli anziani, tanti anziani. Vabbè, queste insomma sono le classiche analisi e categorie che conosciamo. Come si fa però, mi scusi, a recuperare questo pasto che altrimenti viene buttato nel cassonetto? Cioè tecnicamente come fate? Tecnicamente, cioè, lei si mette d'accordo con un'associazione di categoria, si mette d'accordo con l'esercizio, con il pubblico esercizio, e chiaramente la, diciamo, la Caritas di turno, un'associazione caritatevole, va a ritirare questo cibo e lo porta presso le mense. Diciamo, quindi si tratta sostanzialmente di accordi che vengono fatti tra i commercianti. Cioè, voi fate gli intermediari tra questi due mondi, il mondo che produce il cibo e chi poi lo può distribuire a chi ne ha, chi ne ha bisogno. Come dicevo prima, sono quelle persone, diciamo, no, che sono famiglie monoreddito, disoccupati, pensionati, invalidi, persone senza fissa dimora. Perché, mi scusi, Fogliani, c'è lei accennava alla burocrazia, no? Cioè alle leggi, alle regole che regolano appunto questo mondo della vendita del cibo. Non è semplice anche per un negoziante, per uno che ha una gastronomia, un ristorante o qualcosa, poi evitare di buttarlo questo cibo, perché non è che si può rivendere se sono passati certi limiti di tempo, certe condizioni anche igieniche. Invece voi intervenite proprio in questa nicchia qua. Succede proprio questo. Oggi cosa succede? Se lei va in una gastronomia, si prende del cibo, casomai sta in macchina perché fa altre commissioni, se la porta a casa, se lo mangia tranquillamente, giusto? Sì. Se io lo stesso cibo vengo insieme a lei dopo un quarto d'ora e prendo questo cibo e lo voglio donare, oggi non è possibile donarlo. E questa è una follia. Perché, esatto, questa è la burocrazia, perché lei deve avere un furgone coinventato, deve avere un abbattitore di temperatura, ci vuol dire che deve essere abbattuto il cibo prima, deve avere un contenitore, diciamo, da portare il cibo, che quella è la cosa più facile. Con questa burocrazia cosa succede? Che naturalmente se io sono un volontario e voglio andare con la mia macchina a ritirare del cibo in un contenitore, come posso fare del trasporto dei pasti, e portarlo a questo ente caritatevole, oggi non lo posso fare. Perché prima mi manca questo. In più devo trovare il pubblico esercizio, no? Che non sono tanti, sono pochi, che deve aver abbattuto il cibo con abbattitore di temperatura. Invece voi riuscite in qualche modo ad aggirare questa questione. Naturalmente lo facciamo con quelli che hanno queste caratteristiche. In quali città siete presenti? Mi scusi, così anche per dare questa informazione. Genova, Roma, Firenze. Stiamo uscendo a Palermo, abbiamo già avuto il patrocinio del comune di Palermo, e a Napoli e adesso a Milano presto. Insomma, speriamo che se qualcuno ci sta ascoltando che venga raccolto un po' il vostro appello a semplificare un po' questo mondo e a rendere più facile la vita di chi come voi dà una mano su questo, ed è una cosa importante. 70.000 pasti, è giusta la cifra che nel 2012 siete riusciti a recuperare con questo sistema? Certo, si tenga presente che lei, cioè, potrebbero essere milioni i pasti, no? 70.000, perché certo, se questo meccanismo fosse amplificato e se il sistema fosse semplificato, è chiaro che si riuscirebbe a fare molto di più. Intanto grazie a voi per quello che fate e a lei, Gregorio Fogliani, presidente di Qui Foundation, per averci raccontato questa iniziativa Pasto Buono. Mettere l'inno del Varese Calcio, ma poi abbiamo trovato questa canzone Facci un gol degli Statuto e insomma ci sembrava altrettanto bella, altrettanto adatta, perché parliamo di calcio, parliamo del Varese Calcio e di una iniziativa che adesso ci racconterà il suo presidente Nicola Laurenza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'idea è molto semplice: regalare l'abbonamento ai disoccupati o anche agli studenti a basso reddito, insomma riempire, portare gente allo stadio, regalare l'abbonamento in cambio però di qualcosa, di un po' di volontariato. Quindi diciamo due buone notizie in una. Laurenza, intanto complimenti, perché non so in quanti ci hanno pensato a fare una cosa così. Grazie, ma è stata un'iniziativa, diciamo, Perché noi abbiamo un'importante funzione, che è quella di riuscire a anche educare le persone per fare in modo che si restituisca un po' di più al sociale. Sì. Questo è importante, quindi l'iniziativa di dare per avere ci sembrava assolutamente azzeccata per, da una parte, portare più persone allo stadio e soprattutto portare delle persone che per un budget familiare magari sfavorevole, perché hanno delle difficoltà economiche appunto che gli impediscono di fare l'abbonamento, riportarle comunque a tifare la propria squadra. E sicuramente quello di educare le persone a dedicare un po' di, del loro tempo libero per fare delle attività che sono di servizio alla collettività, quindi non solo a loro stessi, ma anche comunque ai figli delle, delle altre persone che vivono. Ecco, magari adesso parliamo anche di questo, cioè di che cosa si chiede in cambio dell'abbonamento. Tra l'altro, io dicevo, non so in quanti ci hanno pensato o provato, a dire la verità un piccolo precedente l'avevo trovato, ed era il Grosseto che voleva regalare l'abbonamento, e forse regalerà ai, ai disoccupati. Voi siete stati un po' meno generosi, chiedete in cambio qualche cosa, però anche questo, volendo, come ci stava raccontando, è un valore aggiunto. Che tipo di volontariato, diciamo, viene proposto ai disoccupati che si fanno vivi per avere l'abbonamento gratis? Sì, beh, effettivamente quello che si chiede indietro a, diciamo, alla fine comunque è simbolico come gesto, perché si chiede di dedicare 3 giorni del, del proprio tempo libero, quindi 8 ore al giorno per 3 giorni da distribuire nell'arco di questa annata calcistica all'associazione ON del, del nostro, del mio amico Max Laudadio, che si sta impegnando per pulire i boschi della, del territorio varesino. Quindi sono 5 Alpi qui vicine, 5 montagne, quindi stanno pulendo i sentieri che portano a, a queste 5 vette. Quindi sembrava un'iniziativa molto importante, anche perché è uno dei parchi più belli della, sicuramente non solo della provincia, ma anche della, della, della regione in generale, e quindi sì, sembrava assolutamente una bellissima iniziativa. Senta, sarebbe bello però che Laurenza, che qualche calciatore del Varese desse anche il buon esempio. Avete previsto anche questo o no? Assolutamente, ecco, diciamo non era fattibile la prima giornata, appunto, sì, perché era appunto domenica di 2 settimane fa, quindi assolutamente non era possibile, però qualche calciatore ha già dato la volontà, ha già promesso appunto il suo impegno, e quindi dedicherà una giornata lavorativa insieme a noi a pulire appunto i boschi. Diciamo sì, che noi andiamo anche sulla fiducia, perché non abbiamo chiesto di effettuare le 3 giornate e successivamente appunto di rilasciargli l'abbonamento, ma è il contrario, darete l'abbonamento e poi insomma, ovviamente sperando nella buona fede delle persone, li convocherete per queste giornate. Un altro piccolo precedente riguarda tutt'altra storia. L'azienda, nota azienda di design, la Alessi a Omegna in Piemonte, ha chiesto ai suoi dipendenti se invece della cassa integrazione volevano andare a fare lavori socialmente utili per il comune. Quasi tutti hanno aderito, naturalmente ci guadagnano sullo stipendio che non perdono e vanno a fare questi lavori socialmente utili. Lì forse c'era anche un po' la spinta di appartenere a un'azienda. Voi cosa vi aspettate a livello di adesione tra i vostri tifosi? Cioè, Varese è una città anche grossa. Quanta gente, intanto se qualcuno ha già aderito, oppure quanti ve ne aspettate che ci saranno alla fine, Lorenzo? Ma al momento hanno aderito 27 persone, quindi hanno richiesto informazioni, hanno poi concretamente, quindi la richiesta informazioni credo sia stata più o meno doppia, però effettivamente poi hanno aderito e ricevuto l'abbonamento già 27 persone. Adesso noi insomma a Varese siamo diffusi abbastanza bene, credo, con le frequenze Radio 24. Alla fine, cioè, già questo risultato vi accontentate o pensate che ci possa essere un bacino di persone anche più grosse? Quanta gente contiene intanto lo stadio lì a Varese? Lo stadio ha una capienza, se non ricordo male, di 8.104 posti. Quindi posto sì, noi abbiamo fatto quest'anno 2.055 abbonamenti, quindi diciamo abbiamo ancora tanto spazio per i biglietti singoli eventi o per eventualmente gli abbonamenti per questa iniziativa. quindi adesso appunto abbiamo 27 persone che hanno aderito e sono assolutamente contento, c'è ancora tanto spazio. Diciamo che noi abbiamo avuto circa 500 abbonamenti in meno rispetto all'anno scorso, molti sicuramente dettati dalla crisi, quindi credo ci sia... Cioè, il margine c'è, il margine potrebbe essere, visto calcolando abitanti, gente interessata alla partita, al calcio, gente che era abbonata e adesso non è più, qualche centinaio. Voi avete intercettato, ecco, esatto. Uno zero in più rispetto ai 27 attuali. Il tempo tutto sommato c'è, tra l'altro questo potrebbe diventare un po' anche, come dire, un termometro di questa crisi di cui si parla, no? Si dice che c'è gente sicuramente che è in difficoltà, sulla soglia della povertà, eccetera, eccetera. La vostra iniziativa va in questo senso. Poi però, quando c'è da rimboccarsi le maniche, da far qualcosa, in questo caso 3 giorni di volontariato, ma anche solo farsi vivi per chiederlo l'abbonamento, c'è una soglia psicologica, qualcosa che ci dimostra che non siamo poi caduti così in basso, perché teoricamente di fronte alla vostra iniziativa dovrebbero esserci camionate, non dico, di tifosi che arrivano. Effettivamente è vero, io un po' spiccavo in una richiesta di informazioni decisamente maggiore, sinceramente, perché abbiamo avuto un calo appunto di circa 500 abbonamenti, che sui 2.500 rotti dell'anno scorso rappresenta comunque un quinto di abbonamenti in meno. Leggendo un po' i blog, leggendo un po' le varie notizie su internet, comunque soprattutto comunque i post dei vari tifosi sui vari blog del territorio, tanti davano la colpa a questo numero inferiore di abbonamenti alla crisi comunque che era sopraggiunta in quest'anno. Ci fa presto a riempirsi la bocca, no, di queste cose. Poi però invece arrivate voi e non è che si smuova proprio tutto. È vero. Io comunque un approccio sempre positivo a qualsiasi situazione, quindi comunque anche in questo momento, certo, cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, però effettivamente diciamo che su 500 abbonamenti meno mi aspettavo che almeno la metà poi concretamente si trasformassero in, ecco, abbonamenti. Magari quello che si può dire è che la prossima volta pensiamoci un po' prima di dare tutto la colpa alla crisi sempre a tutto. Questo potrebbe essere una piccola lezione. Comunque tempo c'è, l'iniziativa è forte, valida e quindi sicuramente crescerà. Un'ultima cosa gliela voglio chiedere, Laurenza, perché mi ha incuriosito anche questo. Cos'è il football sitter che state facendo lì a Varese? Ma allora, diciamo che fa parte di un progetto insieme a questo appunto degli abbonamenti in cambio del proprio tempo libero, fa parte di un progetto che è più complesso. Io sono sempre stato molto sensibile al tema del sociale e alla solidarietà, quindi noi stiamo incontrando diverse associazioni, diverse cooperative no profit del territorio varesino, perché vogliamo avviare delle iniziative volte appunto a migliorare la collettività, a migliorare comunque quella che è la vivibilità sociale. E il Varese, inteso come Varese Calcio, in questo momento è un veicolo mediatico assolutamente forte, perché arriviamo comunque alla quarta stagione di B, quindi abbiamo comunque un ottimo seguito, una buona notorietà. Football Sitter consiste nel la possibilità di poter lasciare i propri bambini all'interno dello stadio, ma in un'area dedicata che in questo momento è il campo in sintetico antistadio, ma poi stiamo individuando delle altre aree all'interno dello stadio, ha del personale qualificato, mia moglie per prima, comunque presenza ed è parte anche attiva della parte di babysitting, lasciare quindi i propri bambini in tutta tranquillità e potersi godere la partita in tribuna, ecco, sugli spalti, non solo in tribuna ma anche nei distinti, nella curva, perché è un'iniziativa rivolta a tutti i fruitori dello stadio. Tutta la famiglia Laurenza schierata in prima fila. Senta, per chiudere, come si fa? Ha 2 anni e in queste, ce lo manda. In queste due prime, mio figlio ha 2 anni e in queste prime 2 giornate di iniziativa di football sitter era in campo a giocare insieme agli altri bambini, quindi proprio tutta la famiglia Laurenza. Benissimo. Senta, per aderire, come dicevamo prima, per far crescere l'iniziativa sugli abbonamenti per i disoccupati in cambio di 3 giorni soli di volontariato, come si fa? Si va su un sito, si viene da voi, bisogna scrivere una lettera, cosa si deve fare? Bisogna scrivere biglietteria @varese1910.it o chiamare qui in sede, adesso il numero a memoria credo. Vabbè, ripetiamo la mail, che tanto ormai sul nostro sito internet. Ripetiamo la mail, così lo diciamo. Biglietteria @ varese1910.it. Perfetto, questo era quello che dovevamo dire, l'abbiamo detto. Grazie a Nicola Laurenza, presidente del Varese Calcio, per averci raccontato questa iniziativa e per averla soprattutto proposta ai tifosi del Varese. A presto, in bocca al lupo per tutto. Seguiteci perché ne vedrete delle belle. Siamo alla ricerca del migliore, anzi della migliore della città italiana, candidata a capitale europea della cultura nel 2019, la migliore. Le stiamo sentendo tutte perché è un modo anche per riscoprirle, per conoscerle. Abbiamo parlato le settimane scorse di Ravenna e di Urbino, questa volta vediamo la candidatura di Bergamo e abbiamo convocato Federica Olivares, Project Manager di Bergamo 2019. Buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Allora, poi parleremo delle meraviglie di Bergamo e dei punti forti di questa candidatura. Intanto però ricordiamo, come sempre, quali sono le regole e a che punto dell'iter per candidarsi siamo arrivati? Le città candidate hanno consegnato i loro dossier di candidatura entro venerdì 20. Quindi è una settimana che siamo tutte in corsa, sono 19 città candidate, città bellissime di tutta Italia. Noi rappresentiamo una città importante, una città la cui importanza è a volte un po' nascosta. Ecco perché abbiamo messo come motto forte di questa candidatura, abbiamo scelto Bergamo oltre le mura. Quindi al di là delle proprie preziose mura venete, per comunicare a questo paese, all'Europa e in modo internazionale, le eccellenze di questo territorio. E sono delle eccellenze non solo artistiche e culturali, ma anche scientifiche e di innovazione. E quello che oggi ha bisogno l'Europa e ha bisogno il nostro paese è di una capacità competitiva che si fondi proprio sull'innovazione. Ecco perché abbiamo messo insieme due mondi come l'arte e la scienza, perché l'ispirazione artistica e l'innovazione scientifica hanno molte dinamiche comuni. Ecco, poi le domanderò anche che chance vi date, visto che se scorriamo anche l'elenco delle vecchie capitali europee della cultura ci sono città illustre, magari in un periodo in cui era l'epoca d'oro delle capitali europee, quindi c'erano Dublino, Berlino, adesso sono anche città più piccole. Però prima le voglio chiedere un'altra cosa: cosa si aspetta una città come Bergamo che si candida a questo appuntamento? Perché insomma, sui grandi eventi sappiamo che c'è sempre un po' di discussione, portano soldi, però a volte portano anche spese per prepararsi e il ritorno economico a volte è in discussione, messo in discussione, portano turisti, portano diffusione del brand. Cosa si aspetta Bergamo da questa candidatura? Bergamo è una città che ha una cultura imprenditoriale, quindi economica, una cultura della concretezza molto distintiva anche rispetto alle altre città candidate, quindi ha costruito la propria candidatura come una costruzione di valore capitale per la città e il suo territorio, quindi un valore che è fatto per restare. E tutta la candidatura è stata costruita non come un grande evento, ma come un percorso di crescita, di sviluppo e di consolidamento. Quindi comunque vada il risultato di questa candidatura, Bergamo ha accelerato il proprio percorso e sta accelerando il proprio percorso di eccellenza. E questo è il senso di questo programma ECOC, come si chiama in termine europeo, di aiutare città di minori dimensioni, come lei giustamente diceva, non soltanto le eccellenze già riconosciute, a proiettarsi sulla mappa del pianeta Europa e del pianeta internazionale ed essere premiate non per quello, dice esplicitamente il bando, per essere premiate non per quello che sono già, ma per quello che si propongono di diventare. E questo per le città non metropolitane italiane è un programma di accelerazione indispensabile, perché tutte le città italiane non metropolitane e molte in Europa, lei pensi che il 40% delle città europee hanno meno di 50.000 abitanti, quindi stiamo parlando di un tessuto europeo che condivide un po' le stesse problematiche, e cioè una debolezza infrastrutturale, molto spesso anche di mobilità, una resistenza al cambiamento. Ecco, però ecco, questo, diciamo, questa capacità anche di essere rappresentanti di una Europa delle città medie, medio piccole forse anche. Però facciamo proprio il momento proloquo, no? Il momento, il minuto nel quale qual è la tu di Bergamo? Noi, insomma, abbiamo fatto Ravenna, ci hanno detto la città gira intorno a Dante, oltre che a un distretto di un certo tipo, eccetera. Urbino, la capitale dell'umanesimo. Bergamo come si presenta? Qual è? Lei ha detto cultura, diciamo, e storia, ma anche l'innovazione. Esatto, del passato, ma anche del presente, perché ha un'Accademia Carrara, ha un sistema di teatri fra i più belli del mondo, è la città della musica, è la città di Gaetano Donizetti, di Mayr, è una città che porta con sé un palinsesto musicale, ma è la città di Bergamo Scienza, è la città del chilometro rosso, è la città dell'Istituto Mario Negri, è la città dell'ILAB, è la città della Fondazione Dalmine, è la città di un tessuto diffuso di imprenditorialità che, se posso anche dire, danno all'Europa una rassicurazione di sostenibilità economica nel tempo di questa candidatura, che non so quante città italiane è, ecco, oggi. Anche questo può essere un elemento. In chiusura, 30 secondi per dire questo, lo chiediamo a tutte le città candidate: si può vivere di turismo in Italia? Si può puntare sul turismo culturale? Voi che vi candidate a questo appuntamento eminentemente culturale, penso la risposta sarà sì, però perché? Come? Ma non solo di turismo culturale. Allora, il turismo culturale rispetto al turismo di massa porta un turista più attento, quindi ha una sostenibilità, che permane più a lungo, almeno una notte di permanenza, e che spende di più ed è più attento al proprio territorio. Ma non basta. Se non inneschiamo un'innovazione che va a toccare i nostri giovani e le generazioni del futuro nel mettere insieme le nuove fruizioni culturali, gli occhiali di Google sono nati da arte, cultura e bioscienze, e Bergamo può fare tutto questo, quindi ce la faremo comunque. Questo era il vero spot per Bergamo Capitale Europea della Cultura del 2019, staremo a vedere. Grazie intanto a Federica Olivares, Project Manager di Bergamo 2019. È tutto per questa puntata, dobbiamo fermarci qua. Grazie anche a voi che ci avete ascoltato, ad Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma, Franco Piantanida in redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo che dalla settimana prossima l'appuntamento con Si Può Fare sarà il sabato mattina alle 7:30 fino alle 10:00, la domenica dalle 8:30 fino alle 11:00 sempre del mattino. Nuovo formato, seguiteci, vedremo che cosa combineremo. A presto, al prossimo weekend.